il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sono sempre di più le cooperative sociali che si aprono all'agricoltura. Ne abbiamo parlato più di una volta in passato. Oggi abbiamo ospite Angelo Saorin, coordinatore del progetto Fuori di Campo, appunto un settore che si occupa di agricoltura all'interno della cooperativa Polis Nova, appunto una cooperativa sociale. Benvenuto Angelo. Buongiorno, grazie. Ecco, da qualche anno anche questa cooperativa che opera nel Padovano ha avviato un'attività di agricoltura. Ma intanto diciamo che cos'è la cooperativa e perché è nata questa esigenza di avviare anche un percorso agricolo? Allora, Polis Nova è nata nell'85, è una cooperativa sociale di tipo A che gestisce servizi socio-assistenziali ed educativi. Gestisce due centri diurni, uno per la disabilità nella sede di Via del Palazzi e un centro per la salute mentale sempre a Padova in Via Ponte Vigo d'Altre. È nata l'esigenza nel 2007 di diversificare le attività che facciamo con i ragazzi inseriti, in quanto più di qualche ragazzo inserito aveva bisogno di fare o attività all'aperto e a contatto con la natura o attività di socializzazione in negozio presso il nostro punto vendita. Avendo il terreno certificato già dal 2000 con ICEA, certificato col sistema biologico, ci siamo avventurati in questa coltivazione e produzione di verdura e frutta. Nel 2007 abbiamo iniziato a coltivare 3.000 metri quadri producendo verdura stagionale e vendendola ai nostri lavoratori, all'interno dei nostri lavoratori del gruppo Polis. Via via negli anni, parallelamente alla richiesta di inserimento di nuovi ragazzi in queste attività, è cresciuta di conseguenza l'attività di coltivazione di ortaggi e di frutta. L'anno scorso, nel 2015, avevamo 6 ettari a verdura, quindi 60.000 metri quadri a verdura, a cui si sono aggiunti in affitto altri 8 ettari che abbiamo seminato cereali e 3 ettari a vigneto. Quindi si sta ampliando, cioè da un piccolo, diciamo, tra virgolette piccolo appezzamento di terreno che serviva alle attività dei dipendenti o comunque di chi ruotava attorno alla cooperativa, è diventata una vera azienda agricola a tutti gli effetti? Sì, sta assumendo il carattere di azienda agricola. Siamo passati in 7 anni da 3.000 a 60.000 metri quadri, più che ha avuto un aumento esponenziale di attività sia agricola da una parte di produzione e dall'altra di commercializzazione dei prodotti. Come si concilia l'aspetto anche economico, perché un'azienda deve comunque stare in piedi, e la solidarietà, quindi sociale e agricoltura sociale? Ok, questa è una sfida che viviamo quotidianamente, perché dall'altra abbiamo, da una parte abbiamo il compito di avere un'attività economica in pareggio, e questo si ottiene coltivando il più possibile prodotti stagionali che si possono coltivare qui al nord e vendendoli al pubblico. Contiamo un 300 clienti settimanali che acquistano i nostri prodotti. Dall'altra la sfida è produrli con un'agricoltura biologica sostenibile e sociale, quindi molto spesso ci si ritrova a fermarsi di sera per finire il lavoro che non è stato finito durante il giorno, perché magari ci sono stati problemi educativi con i ragazzi che richiedono il loro giusto spazio. Ecco, questi ragazzi che tipo di attività svolgono, sia in campo sia poi all'interno del punto di distribuzione? Esatto. Abbiamo i ragazzi che fanno attività produttiva in campo, si occupano della preparazione del terreno con i nostri operatori, alla semina, ai trapianti, al togliere le male erbe, in quanto nel biologico non usiamo diserbanti e quindi si toglie l'erba a mano, soprattutto vicino alle piantine. e si occupano poi della raccolta del prodotto che viene destinato alla vendita in negozio. D'altra parte, i ragazzi inseriti in negozio si occupano di integrare i prodotti negli scaffali e sono i nostri commessi del negozio che servono i clienti, contando o pesando quello che il cliente richiede e a volte dando anche consigli sulle ricette, su come si può usare il prodotto, su come si può mangiare. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Va bene, grazie. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di agricoltura sociale e in particolar modo del progetto Fuori di Campo interno alla cooperativa Polis Nova di Padova. Questi progetti appunto di agricoltura sociale non solo hanno questa attività con persone che hanno delle difficoltà, ma molto spesso sono, abbiamo visto nel Veneto, sono importanti per il recupero del territorio. Molto spesso appunto queste cooperative lavorano con, hanno fatto la scelta dell'agricoltura biologica, altrettanto spesso cercano prodotti particolari, recuperano prodotti tipici, varietà che magari si erano perse. È il vostro caso anche questo? Sì, noi siamo soci della cooperativa agricola Altamiso da 4 anni e con loro stiamo seguendo un progetto di riselezione del seme del finocchio e del broccolo padovano. Facciamo parte della sperimentazione all'interno della cooperativa agricola Altamiso, quindi anche noi abbiamo 2 varietà di cui selezioniamo il seme e che poi scambiamo con altri produttori. Come vengono visti i vostri prodotti? Nel senso, c'è richiesta anche da parte del consumatore di prodotti che vengono da questo tipo di esperienze, un valore aggiunto per il consumatore, oppure guardano ancora con un po' di diffidenza? Allora, il primo approccio del cliente, del consumatore, ha un approccio diffidente, nel senso che cerca un prodotto di qualità, di un'ottima qualità e non accetta che ci siano difetti o non è disponibile a pagare troppo rispetto al mercato convenzionale. Quando però poi conosce la nostra esperienza tramite le visite guidate o tramite l'esperienza in negozio o contatto con i ragazzi inseriti, capisce che è un valore aggiunto e quindi molto spesso i ragazzi che fanno le raccolte sono quelli che poi sono i commessi in punto vendita e quindi che raccontano la storia del prodotto al cliente senza che noi interveniamo. E quindi la diffidenza iniziale si attenua e di molto. C'è qualche prodotto in particolare che viene anche dai ragazzi stessi viene preferito, sia come coltivazione, sia come distribuzione? Bah, sostanzialmente ogni ragazzo inserito all'interno o dell'attività agricola o del negozio è inserito a fronte di un progetto personalizzato e quindi molto spesso il ragazzo per l'oggetto per cui è inserito è più propenso a vendere un prodotto piuttosto che a raccoglierne un altro. Diciamo che nell'agricoltura è uno dei modi per fare riabilitazione che è eccelso, in quanto ogni ragazzo inserito trova il suo spazio e la sua giusta collocazione e quindi riesce ad esprimere le potenzialità che altrimenti sarebbero negate o inespresse. Quindi ognuno trova il suo spazio. Quindi può essere il colore, può essere la forma che attira di più. Esatto, può essere il colore, può essere la forma, può essere la verdura stagionale a foglia piuttosto che la fragola invaschettata bene. Dipende un po' dalla peculiarità del ragazzo inserito. Ecco, dove siete esattamente e com'è possibile acquistare i vostri prodotti? Allora, noi siamo in via Due Palazzi, di fronte al carcere, abbiamo il punto vendita aperto dal martedì al sabato mattina tutti i giorni, al venerdì anche con orario continuato, quindi il cliente può venire ed acquistare i prodotti che più gradisce, che più sceglie. Da noi trova prodotti stagionali, questo ci tengo a precisarlo, quindi non trova il pomodoro a Natale, e trova la fragola solo il periodo di maggio e non tutto l'anno. Ecco, ultima domanda, siamo nella settimana di Pasqua, nella settimana santa, c'è qualche prodotto particolare che avete preparato per l'occasione? Sì, abbiamo preparato delle ciambelle con un impasto particolare, un prodotto artigianale che abbiamo fatto fare da un forno con il quale collaboriamo. È un prodotto artigianale e contengono 3 uova di cioccolato biologico, 3 uova con sorpresa di cioccolato biologico e quindi il cliente ha questa novità per Pasqua, oltre ad avere il vino frizzante che si sposa molto bene con questo tipo di dolce. Perfetto, grazie. Grazie a te. Concludiamo la trasmissione con un paio di notizie. La Commissione europea si è riunita il 2 marzo per valutare il nuovo accordo globale sul clima adottato a Parigi lo scorso dicembre durante la conferenza internazionale COP21. Le colonne portanti dell'accordo, lo ricordiamo, sono il mantenimento dell'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi e il contenimento delle emissioni di carbonio in tutti i paesi firmatari. L'accordo sarà aperto alla firma il 22 aprile a New York. Nel 2020 tutti i paesi firmatari dovranno rendere note le strategie per limitare le emissioni di carbonio a lungo termine di almeno il 40%. Questo obiettivo è già inserito nella strategia energetica europea ed è una delle 10 priorità del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Domenica 17 aprile, ormai dovreste saperlo tutti, gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulle cosiddette trivelle. Ma su cosa siamo esattamente chiamati a esprimerci? Sulla proroga all'attività di ricerca e di estrazione di petrolio e metano entro le 12 miglia marine, circa 22,2 km dalla costa, per gli impianti già esistenti, visto che la legge ne vieta di nuovi, o sulla cessazione immediata alla scadenza dei contratti. Il referendum non riguarda invece gli impianti in mare oltre tale limite e quelli in terraferma. Ad oggi, entro la fascia oggetto del referendum, sono presenti, secondo quanto pubblica il quotidiano Avvenire, 35 concessioni di coltivazione di idrocarburi, di cui 3 inattive, una in sospeso fino alla fine del 2016 e 5 non produttive nel 2015. Le restanti 26, per un totale di 79 piattaforme e 463 pozzi, sono distribuite tra mare Adriatico, mare Ionio e canale di Sicilia. Con il sì, le società petrolifere dovranno mettere fine alle loro attività di ricerca ed estrazione secondo la scadenza fissata dalle loro concessioni. Con il no, potranno continuare anche dopo, se otterranno una proroga, anche per tutta la durata di vita del giacimento, come permetterebbe una clausola inserita nell'ultima legge di stabilità. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.